Bene, cari amici, allora prendiamo in mano il nostro libro, Il Falsario, la lotta quotidiana contro Satana. Stiamo facendo il primo capitolo, che è intitolato La vita è una lotta. Abbiamo visto già i primi due paragrafi di questo capitolo, cioè che il regno dei cieli si conquista combattendo, e abbiamo mostrato come la vita di Gesù, Vangeli alla mano, deve essere letta come uno scontro fra il Figlio di Dio, il potere della luce contro Satana e il potere delle tenebre, questa sfida tremenda che è iniziata fin dall'inizio della vita pubblica di Gesù con le tentazioni nel deserto e che ha avuto lo scontro finale proprio durante la passione, quando Satana portò l'odio fino all'omicidio e quando il Figlio di Dio rispose con il sacrificio della vita, ed è in questo modo che l'amore vinse l'odio, Cristo vinse il maligno. E naturalmente questa che è stata la vita di Gesù è anche la vita di ogni cristiano. E Cristo ci ha avvertito dicendo che il regno dei cieli soffre violenza e i violenti se ne impadroniscono, cioè il regno dei cieli si conquista attraverso il combattimento spirituale. Vedremo che i nemici che dobbiamo affrontare sono proprio in questo combattimento spirituale, sono la nostra carne, cioè il nostro egoismo, il mondo e soprattutto il maligno che si nasconde dietro la nostra carne, dietro il mondo. Abbiamo visto che la posta in palio, che ha visto il Figlio di Dio affrontare il maligno, la posta in palio è siamo noi. Siamo noi perché? Perché l'uomo non è un animale, l'uomo ha qualcosa di preziosissimo ed è la sua anima immortale, a immagine di Dio, e di quest'anima che è goloso il demonio, il quale vuole costruire un suo regno in alternativa al regno di Dio, che abbia un regno che abbia degli abitanti, e questi abitanti sono le nostre anime. Tuttavia, abbiamo concluso ieri con questa consolante conclusione, e tuttavia in questa battaglia fra Dio e il demonio, in cui noi siamo in realtà la preda, siamo noi l'oggetto della contesa, e questa battaglia è decisa in ultima analisi dal nostro consenso. Quindi Satana non può farci suoi senza il nostro consenso. Noi non possiamo diventare sudditi o schiavi o prigionieri del suo regno di morte senza volerlo. Ma nel medesimo tempo neanche Dio può averci fra i suoi senza che noi lo vogliamo. Chi ha creato te senza di te, dice Sant'Agostino, non può salvare te senza di te. Abbiamo anche terminato dicendo che se è vero che l'inferno è un mistero, difficilissimo da comprendere, perché si parla di perdizione eterna, e comunque l'inferno è una realtà, ed è una realtà che ci siano i demoni, che ci sia quindi Lucifero con quelli che l'hanno seguito, quindi delle creature ragionevoli, e quindi il fatto che ci siano o non ci siano uomini non è poi così determinante. Noi ci auguriamo che ce ne siano pochissimi, ci auguriamo che si realizzi, almeno per la nostra generazione, l'auspicio, il desiderio della Regina della Pace, che dice: voglio salvare tutte le anime e presentarle a Dio, però dice voi dovete aiutarmi, no? Io me lo auguro di tutto cuore, quindi che ci sia quella risposta generosa all'azione di Maria, perché almeno nella nostra generazione si salvi il maggior numero possibile di persone. Comunque è di fede che ci sono i diavoli all'inferno, quindi delle creature ragionevoli, molto superiori a noi per dignità di creazione. Ebbene, l'inferno ha una sua intelligibilità, una sua ragion d'essere, proprio da questo punto di vista, cioè dal punto di vista del consenso. Cioè, alla fin fine, siccome Dio trae del bene anche dal male peggiore, quale male peggiore può esserci di una creatura che ha deciso di essere eternamente separata da Dio? Non c'è nessun male peggiore dell'inferno. Ebbene, qual è il bene che tutto sommato riluce ancora nell'inferno? Il bene che riluce è questo, e cioè che Dio rispetta fino in fondo la libertà della creatura, sia essa angelo, sia essa uomo. Dio rispetta la libertà, anche se questo, naturalmente, se questo rifiuto gli dà un grandissimo dolore. No, però Dio non toglie la dignità, il grado di dignità in cui ha creato le creature. avendo creato l'uomo intelligente e libero, avendo creato l'angelo intelligente e libero, non lo priva della sua capacità di decidere del suo destino. Adesso affrontiamo, cari amici, siamo a pagina 10 del primo capitolo, affrontiamo un paragrafo molto interessante, molto, molto bello, perché mette a fuoco quali sono i nemici che noi dobbiamo affrontare in questo combattimento spirituale della nostra vita. Insomma, la vita, cari amici, è un combattimento spirituale. Ciò non toglie affatto che in questa vita possiamo essere vivere momenti di grande pace, di grande gioia, di grande unione con Dio, però questi momenti sono una conquista, sono un dono di Dio, ma anche una conquista. Finché la bestia è viva in noi, la bestia dei sette vizi capitali vive in noi, cari amici, abbiamo un grande nemico dentro di noi, ed è la nostra carne. Questo è il primo dei grandi nemici, perché la nostra carne, con le sette teste, la superbia, l'avarizia, la lussuria, l'ira, la gola, l'invidia e l'acidia, che sfianca la nostra vita. Pensate, per esempio, un lussurioso che vita fa, no? In preda a questa viscida bestia che è la lussuria. Pensate a un invidioso, come si rode, si distrugge il fegato, e trama, e spettegola, e colpisce, e distrugge il prossimo, e trema per qualsiasi successo che è il prossimo, eccetera. Cioè, i vizi capitali sono quella brutta bestia che è in noi, il primo nemico da battere, e senza il quale non si è liberi. Quindi questo è il primo grande nemico che dobbiamo affrontare, e che Gesù stesso ci ha indicato di affrontare quando ha detto: chi vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso. Dove la parola se stesso sta a indicare il proprio io egoistico, la mala bestia che è in noi, la quale, dice Dante, mai non sazia la bramosa voglia, ma dopo il pasto ha più fame che pria, no? Di prima. Così, quando noi saziamo le buche fameliche di sette vizi capitali, dopo il pasto abbiamo più fame che di prima. E chi beve di quest'acqua avrà ancora sete, diceva Gesù. Il secondo nemico, cari amici, è il mondo dove certamente anche Dio ha i suoi alleati, ma dove il male si è consolidato nel cuore degli uomini, nelle strutture, nelle leggi. Oggi poi non bisogna dimenticare che il mondo è molto pericoloso anche per il potere massmediatico. Il potere massmediatico che è in gran parte lontano da Dio, che ha una grande influenza sugli uomini. E poi dietro il mondo e la carne c'è il grande regista che si nasconde, che non si fa vedere, perché se Satana, come vedremo nel secondo capitolo, si chiama il principe delle tenebre, questa affermazione è certamente polivalente, cioè ha molti significati, ma uno dei significati più interessanti di questa espressione principe delle tenebre vuol dire che è colui che si nasconde volentieri, cioè Satana non si esibisce. Satana non fa del protagonismo, Satana non sale sul palcoscenico, Satana non si presenta mai così com'è. La sua abilità consiste nel cancellare le tracce della sua presenza. Ha sempre in mano il deodorante per far sì che noi non sentiamo odore di zolfo, mi si perdoni questa battuta. Perché Satana si nasconde sempre sistematicamente? Per cui il compito del nostro lavoro che abbiamo fatto è primariamente quello di imparare a scoprirlo. Ebbene, Satana si nasconde perché se noi ci accorgiamo della sua presenza, ci accorgiamo che lui stiamo attenti. Difatti, i momenti pericolosi non sono quelli in cui Satana sfoga la sua rabbia. Sono dei momenti in cui Satana sfoga la sua rabbia con tanti dispetti, lo si sente. La rabbia satanica, chi di voi è un po' avanti nel cammino spirituale, avrà imparato a percepirla, no? E quando Satana non riesce a raggiungere i suoi obiettivi, non è riuscito a temere il trabocchetto, gli è andata male la sua malizia, c'è qualcosa di bello che la Madonna sta facendo, e lui digrigna i denti. Pensate con che furia il maligno ha cercato di distruggere ciò che la regina della pace è andata costruendo in questi anni, con la guerra balcanica, con la guerra del Kosovo, no? Cercando di diffondere la rabbia, l'odio, la devastazione, la distruzione, laddove la regina della pace voleva costruire la pace, l'amore, la concordia, la fratellanza, no? Quindi Satana non è neanche pericoloso quando sfoga la sua rabbia, perché se, appunto, se è arrabbiato, io quando lo vedo arrabbiato sono tranquillo, io intensifico la preghiera tutte le volte che sento bonaccia, che sento un silenzio come quello dell'uragano prima che scoppia, perché sicuramente ne sta pensando qualcheduna delle sue. E allora bisogna intensificare la preghiera perché Dio ti dia la luce di sapienza di scoprirlo dove sta lavorando. Per cui, proprio perché lui si nasconde, molti pensano che i nemici, anche dei maestri di spirito, ci sono degli incredibili maestri di spirito, che indubbiamente non esitano, non hanno nessuna difficoltà a dire che la vita è un combattimento spirituale. Solo che quando si indicano i nemici di questo combattimento spirituale si fermano soltanto alla propria, al proprio io, alla propria carne, i nemici, magari poi nemici che sono nemici fino a un certo punto, il mondo, sì, lottiamo per la giustizia, certamente, però alla fin fine, quando si tratta di elencare i nemici, sì, sono nemici un po' di parte, ma comunque ammettono che il nostro combattimento spirituale è dei nemici che sono in noi e intorno a noi, ma non parlano mai del maligno. Dico che è una cosa sorpassata, che noi abbiamo attribuito a Satana ciò che abbiamo attribuito e in qualche modo incarnato in Satana quel male che noi sentiamo che c'è in noi, che c'è nel mondo. In realtà c'è soltanto quel male che è in noi, che è nel mondo, ma non esiste il demonio. E perché fanno questi ragionamenti? Prima di tutto perché hanno poca fede, perché non prendono sul serio la parola di Dio. No, questi sono i motivi più importanti. Poi anche perché effettivamente il demonio si nasconde. Si nasconde. Ma perché, voi leggete il Vecchio Testamento, cari amici, a parte la tematica della tentazione di Adamo ed Eva, non è che ci sia una presenza del demonio nel Vecchio Testamento di particolare significato, non se ne parla, se ne parla poco. Dopo la pagina famosa del Genesi, nel Vecchio Testamento si parla poco del diavolo, e anche quando non se ne parla non si mette in luce l'aspetto tenebroso, tremendo del maligno. Questo viene svelato, la presenza del maligno e il suo aspetto tenebroso, viene svelato con la venuta di Cristo, cioè la luce che rivela le tenebre. Tu nei Vangeli vedi la malizia del maligno, nei Vangeli vedi la sua presenza distruttrice, nei Vangeli e poi negli scritti che testimoniano la diffusione della Chiesa, quindi negli Atti degli Apostoli, nelle lettere di Paolo, nell'Apocalisse, nelle lettere di Giovanni. E perché? Perché la grande luce di Cristo e poi la grande luce della Chiesa, in quanto Cristo illumina il mondo nella Chiesa, che ha mostrato il maligno. Quindi, certamente Satana si nasconde, ma è con la luce della parola di Cristo che noi lo scopriamo. Ecco perché dunque, cari amici, voi troverete dei libri di spiritualità che si soffermano moltissimo a parlare di quei nemici che sono i vizi capitali, di quelle tentazioni che spesso vengono dal mondo, ma non parlano della pericolosità del maligno. Perché? Perché il maligno si nasconde. Ma guardate che la sua opera nefasta, anche se lui ama nascondersi attraverso la, dietro la carne e il mondo, guardate che la sua opera è micidiale anche se non ci fosse la carne e il mondo, perché guardate che nel paradiso terrestre c'era né la carne né il mondo, perché nel paradiso terrestre Adamo ed Eva erano costituiti in santità, non avevano in loro la tendenza al male e non c'era il mondo con le sue seduzioni, eppure il maligno li ha affrontati e li ha sedotti, li ha vinti. La medesima cosa si può dire di Cristo nel deserto. Cristo non aveva certamente alleati, cioè non aveva certamente in sé le tendenze al male che sono alleate del demonio, perché la sua carne era santa, la sua umanità era senza peccato originale. Nel deserto non c'era anche il mondo che lo seduceva, ma Satana l'ho affrontato, lo stesso è soltanto la grande preghiera di Cristo l'ha sconfitto. Quindi vedete, cari amici, che è da stupidi, scusate l'espressione, pensare che i nemici siano soltanto la carne e il mondo. In realtà il primo Adamo, il vecchio Adamo, e il nuovo Adamo Gesù Cristo hanno affrontato la grande tentazione senza i primi due nemici, cioè senza la carne e senza il mondo. Perché il grande regista, la radice, è il maligno, il pervertitore, il perverso. Colui che si è pervertito e perverte, dice Paolo VI. Dopo questa premessa, incominciamo a pagina 10 a leggere e a commentare questo paragrafo dedicato ai nemici del combattimento spirituale, che sono appunto la carne, il mondo e il maligno. Ogni guerra, scrivo, ha i suoi nemici. Anche il combattimento spirituale ha i suoi, e sarebbe un gravissimo errore ignorarli o sottovalutarli. È essenziale conoscere gli avversari della nostra beatitudine eterna per evitare le loro insidie e per poterli affrontare con le armi appropriate. Quindi è importante sapere chi è il nemico, valutare la sua forza, le sue insidie, per affrontarlo con le armi appropriate e con la strategia appropriata. La tradizione spirituale addita concordemente tre nemici, contro i quali non dobbiamo mai abbassare la guardia. Sono la nostra carne, il mondo e il demonio. A questo riguardo non esito ad affermare che il nemico più insidioso dell'uomo non è il demonio. Non è il demonio, cari amici, lo spiegherò per quale motivo, e cioè perché dopo la redenzione, come dice Caterina da Siena, e come dice la tradizione spirituale, il demonio è come un cane feroce che però è legato. E quindi non ti può azzannare se tu non ti avvicini a lui. Quindi non è perché il demonio non sia pericolosissimo. È certamente più pericoloso, ma dopo la redenzione è meno pericoloso dalla carne del mondo perché è legato. Dunque, a questo riguardo non esito ad affermare che il nemico più insidioso dell'uomo non è il demonio. Dopo la redenzione, egli è come un cane legato, il quale può nuocere soltanto a coloro che sbadatamente o volutamente gli si avvicinano. Il più pericoloso nemico dell'uomo è l'uomo stesso. Perché? Perché l'uomo è così stupido da avvicinarsi. I progenitori, che pure si trovavano in stato di grazia, sono stati causa cosciente e libera della propria caduta, nonostante l'innegabile abilità del tentatore. Quindi, chi l'uomo fra i tre nemici deve temere di più? L'uomo fra i tre nemici deve temere di più se stesso, perché stupidamente e sbadatamente, come dice Caterina da Siena, mette in mano al demonio quel coltello col quale lui lo uccide. La nostra situazione esistenziale è assai più esposta di quella dei progenitori alle insidie del male. Infatti, anche dopo il battesimo, nell'uomo vi è una inclinazione al disordine morale dovuta alla sua natura ferita dal peccato originale. L'apostolo Giovanni mette in evidenza in modo particolare tre tipi di concupiscenza che si agitano in noi. Chi ha in mano la Bibbia vuol controllare. Controlla la prima lettera di Giovanni, al capitolo 2, versetto 16, di Giovanni indica la triplice concupiscenza che è in noi, cioè la carne, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita. Quindi il primo nemico è certamente il più pericoloso che l'uomo deve combattere è se stesso, la sua natura incline al male. Una natura che il Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 405, chiama parzialmente corrotta. Perché l'uomo sbadato, sciocco, superficiale, è lui che va a mettersi nelle mani del maligno. Quindi diffidare di se stessi, sorvegliare se stessi, controllare se stessi. dobbiamo essere molto vigilanti nei confronti delle infinite astuzie della nostra carne, sempre pronta a ingannare se stessa e ingannarci pur di venire soddisfatta. Quante volte noi siamo pronti a giustificare il male che facciamo e siamo pronti a giustificare tutte le voglie della nostra carne. Quindi la prima vigilanza, cari amici, è nei confronti delle infinite astuzie della nostra carne. Quando la concupiscenza, che si nasconde nei sotterranei oscuri del nostro essere, vuole ottenere qualcosa, non è forse vero che è sempre pronta a presentarci ottimi argomenti pur di conseguire i suoi obiettivi? Noi siamo degli abilissimi ingannatori di noi stessi. La carne, attenzione a questa frase che è certamente mordace, è certamente da trattenere nella memoria, la carne non castigata è il più subdolo nemico della nostra salvezza eterna ed è il principale alleato di Satana. Essa, nella sua straordinaria capacità di argomentare in modo ingannevole, riuscirà perfino a convincerti che la natura umana, sottoposta alla spinta della concupiscenza, non può fare a meno di peccare, quindi uno si autoassolve. Ti farà se... dice, ma non è peccato, ma no, ma come fa a essere peccato, ma no, ma sono cose naturali, capisci? Ti farà sentire in un modo così violento le sue fallaci pretese che tu finirai per gettare la spugna e per affermare che il bene è impossibile. Certo, è impossibile senza la grazia, ma è invece possibile a chi confida nell'aiuto di Dio e si impegna giorno per giorno nel combattimento spirituale. Quindi, non so se voi avete nella vostra memoria la grande battaglia di San Giorgio contro il drago, no? È certamente così un'icona questa, Giorgio con la lancia contro il drago, che ha trovato espressioni artistiche meravigliose nel corso della storia, e sta a indicare che il nemico numero uno, cioè quello che ti porta senza che tu te ne accorga la perdizione eterna, è proprio la tua carne, sei tu stesso. Per quale motivo? Perché appunto la tua carne avanza le sue pretese e tu non sei capace di mortificarla. La soddisfi e lei diventa la padrona. E poi naturalmente non bisogna dimenticare che il nemico non agisce mai, il demonio non agisce mai direttamente su di te. Lui studia la tua carne, studia le tue tendenze peccaminose e ci soffia sopra. E lui trova sempre nella carne la nostra principale alleata. La carne, perché è il più pericoloso di tutti, più del demonio? Perché la carne, perché mette il demonio fuori di casa tua? La carne è quella persona, mettiamo che la casa sia, come diceva Santa Teresa, una specie di castello interiore, una specie di castello, no? Ebbene, la carne fa parte degli abitanti di questo castello che sei tu, ma lei è quella che apre la porta al maligno, capito? È il Giuda della situazione, è l'alleato del nemico che tu hai in casa. Questa è la pericolosità della carne, perché è lei che apre la porta al maligno che bussa. Ecco perché certamente è il più pericoloso dei nemici. E poi, fra i tre nemici, è il più pericoloso. Perché? Perché è quello che apre la porta al maligno. Con tanti argomenti e tante forme di inganno, dicendo che il maligno non è il maligno, ma anzi è un benefattore, ma anzi che ti porta alla libertà, eccetera, eccetera. Vi è un altro nemico da non sottovalutare, che non è in noi, ma è intorno a noi, e che ci assedia in un modo così asfissiante da non lasciarci neppure respirare. Si tratta del mondo nel quale siamo impiantati come alberi in un campo. Il mondo in sé non è un male, ma il peccato lo ha inquinato e ha permeato le sue strutture sociali, economiche e politiche. In modo particolare la cultura dominante, cioè quel modo di pensare e quei modelli di vita diffusi dai mass media che condiziona i nostri pensieri e le nostre azioni, plasmando in noi una mentalità che spesso è lontana dalla sapienza del Vangelo. Il mondo oggi ha una forza di seduzione straordinaria, poi sappiamo che con i mass media in casa, specialmente la televisione, viene a sedurci proprio laddove noi dovremmo essere più al riparo. Ora non voglio demonizzare il mondo, dico semplicemente che nel mondo ci sono il male si è depositato, e Satana è molto attivo e ha un potere di seduzione che non ha pari nel corso della storia. Anche in forza del potere massmediatico che è sostanzialmente portatore di una visione della vita in cui Dio è assente. Tutti noi ci rendiamo conto, cari amici, quanta influenza possa esercitare un leader politico o uno spettacolo televisivo. Pensiamo a un Hitler che ha convinto il popolo tedesco della bontà dell'Olocausto, e guai a chi era contrario. Ma anche noi in tante occasioni abbiamo dovuto andare controcorrente perché anche i cristiani non pensavano come dovevano pensare ed erano imboniti dalla propaganda. Quindi noi ci accorgiamo di questa influenza nefasta del mondo che ci dà modelli di vita che non sono cristiani in tante occasioni. Appunto basti pensare quale influenza possa esercitare un leader politico in uno spettacolo televisivo. Oppure tanti falsi maestri. Spesso ascoltiamo quasi senza rendercene conto, ma poi ci troviamo a pensare e a parlare esattamente allo stesso modo delle persone del mondo. Persino le persone singole, gli amici che frequenti o i colleghi di lavoro possono condizionarti nel modo di pensare e di agire più di quanto non saresti disposto ad ammettere. Quindi certamente nel mondo ci sono anche influenze positive, cari amici, ma quelle negative non sono poche e bisogna preservarsi con molta vigilanza dalla mentalità del mondo dove il maligno agisce nascostamente. Ebbene, caro amico, nascosto dietro le malizie della carne e le false luci della mondana fiera delle vanità, opera instancabilmente e feroce l'avversario di Dio e il nemico dell'uomo. Satana non è un nemico visibile come la carne e il mondo, ma non è meno reale. La sua astuzia consiste nel nascondersi dietro la carne e il mondo. È in questo modo che consegue i più grandi successi. La tua abilità sta nello scoprirlo nelle innumerevoli situazioni della vita dove egli si cela per tenderti insidie. Sarebbe fuorviante attribuirgli un potere che non possiede. Non vi è dubbio che, però, come dice il Catechismo della Chiesa Cattolica numero 407, in conseguenza del peccato dei progenitori il diavolo ha acquisito un certo dominio sull'uomo, benché questo rimanga libero. Egli soffia sul fuoco della tua carne debole e agisce attraverso le seduzioni del mondo per irretirti e appropriarsi della tua anima. Quindi vedete come è la gerarchia di tre nemici. La carne è dentro di te, il mondo intorno a te, Satana agisce dietro l'uno e dietro l'altro, soffia sulla carne e manovra il mondo per appropriarsi della tua anima. Non farti illusioni. Se percorri la via del peccato, è lui che ti tiene al guinzaglio. E se non ti libererai per tempo, è a lui che apparterrai per tutta l'eternità. Ecco, molti di quelli che sono sulla via del male, cari amici, neanche sanno che c'è il maligno, neanche pensano al maligno, neanche credono al maligno, ma in realtà sono suoi. Ma partendo da questo punto, cari amici, proseguiremo la prossima volta, approfondendo ulteriormente questo tema e soprattutto mostrando qual è l'esito finale del combattimento spirituale che è la salvezza o la perdizione eterna della nostra anima. Scusate se è poco, mi pare che sia tutto. Qui Radio Maria. Abbiamo trasmesso Il Falesario, a cura di Padre Livio. Edizioni Sugarco.